noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì a tutti. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e ci tiriamo dietro in questi giorni, ma sono storie buffe se volete, la vicenda di Donnarumma con un'altra puntata, quella in cui c'è lo scazzo dichiarato tra Raiola e Mirabelli, mentre Raiola strizza l'occhio a Fassone, quindi c'è questo triangolo, il triangolo no, invece il triangolo sì, Fassone è l'amico, Mirabelli il nemico, c'è guerriglia, guerra fredda tra i due e in mezzo c'è Gigio Donnarumma che scrive questo tweet, scrive o gli fanno scrivere o gli dettano o gli scrivono addirittura questo tweet secondo cui insomma, amore al Milan, non è vero che ho mai parlato, mai, non ho mai detto di aver né scritto, di aver subito violenza morale, eccetera. Insomma, cerca una pace improbabile con i tifosi rossoneri. Certo, è una vicenda che ha vari risvolti psicologici, emotivi, di soldi, di potere, di denaro, di ingordigia, se vogliamo. Luca Serafini non le risparmia a nessuno di solito, non so in questo caso. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Cos'hai da dire su sta vicenda? Che non ne risparmio a nessuno delle tre componenti, perché è una farsa che ha stufato tutti, perché non se ne capiscono i connotati, oscura quel barlume di ripresa sportiva che il Milan e Cattuso hanno avuto sul campo e coinvolge un bamboccione di 18 anni che guadagna poco più di 15.000 euro al giorno e gioca nel Milan, e quindi non si capisce che cos'altro vada cercando e trovando. Un paffuto procuratore che fa semplicemente il suo mestiere e i tifosi possono insultarlo finché gli pare, ma lui delle maglie, dei cuori, dei tifosi di tutte le squadre interessa poco, deve far girare il tassametro, fino a prova contraria lo fa molto bene, se c'è qualcuno che abbia sospetti che lo faccia illecitamente si faccia avanti, lo denuncia e porti prove. E poi un direttore sportivo che parla troppo. Sì, parla anche troppo, secondo me. E spesso a sproposito. Noi abbiamo, credo anche tu, nel cuore direttori sportivi come Tugliano, come Braida, come Beltrami, che si concedevano una battuta pubblica all'anno, e generalmente ironica, sì, e si guardavano bene dall'esprimere. Invece Mirabelli fa l'opinionista su Montella, sulla squadra, su Gattuso, sulla società, sui cinesi. Sì, è un po' incontinente dal punto di vista verbale. Bravo, questo sì. Questo sì, e io noto qui così en passant la differenza che c'è quest'anno con l'Inter, dove parla praticamente solo Spalletti, poi ausilio di tanto in tanto qua e là, ma poca roba. Sabatini non abbiamo ancora sentito parlare, mi pare, a memoria. E vabbè, lasciamo stare la proprietà, però mi sembra che il segreto, uno dei segreti dell'andamento dell'Inter sia questo: chiari ruoli societari, l'esternatore è Spalletti, gli altri nell'ombra, e questo penso sia. Questa penso sia la via corretta. Al Milan parlano un po' tutti e appunto spesso a sproposito. Ti voglio leggere un WhatsApp. A proposito, invito gli ascoltatori 800240024 numero verde. Un WhatsApp che dice: vicenda ridicola, come ha rovinato Balotelli, ovviamente sottinteso Mino Raiola, fra con Gigio, povero lui che è stritolato tra l'avidità del procuratore e della famiglia. Questo scrive Elio da Palermo. No, mi dispiace, è una cosa alla quale io non ci sto. Balotelli aveva già problemi gestionali cerebrali di suo, per una vita che io rispetto a fondo, perché poi Balotelli ha avuto una infanzia, un'adolescenza molto complicata dal punto di vista affettivo, e rispetto molto quella che è stata la sua sofferenza e la sua reazione di ricerca continua di approvazione che ha espressa in modi che non sono diversi dalle patologie di cui troppo ha sofferto lui da bambino. Però Balotelli era già comunque di difficile gestione a prescindere, anzi a Raiola deve baciare i gomiti perché gli trova squadra tutti gli anni nonostante tutto. Con tanti soldi, con tanti soldi. Donnarumma, abbi pazienza, ma insomma uno che non ci sta dentro, fra la famiglia, Raiola, il Milan, cioè, ha 18 anni, non si hanno 18 anni solo per essere titolari del Milan da un anno e mezzo, si hanno anche, io mi ricordo, penso anche tu a 18 anni, eravamo uomini fatti, maturi, pronti a prendere decisioni responsabili anche drastiche per scegliere la nostra vita. Quindi questa pagliacciata qui di Donnarumma poverino non va bene. No, ma io neanche, cioè all'età maggiorenne fa il calciatore professionista, questo non vuol dire molto, ma vuol dire che comunque a 18 anni tu potresti dire al tuo procuratore: senti, vai tu a farti linciare a San Siro, perché in questo lo aggiungo, insomma, deve anche essere uomo, però non ha le spalle di Ibrahimovic, non ha le spalle nemmeno di Balotelli, o forse era così la superficialità, se vogliamo, di Balotelli. È uno che si mette lì e che si prende un linciaggio dal suo pubblico che io posso capire lo ha ferito. Ora queste scuse postume possono valere quello che valgono, cioè praticamente nulla, perché poi mi sembra che anche lì la famiglia rema da una parte, il procuratore dall'altra e lui sta in mezzo. Però posso capire che scatenare un tipo di guerriglia, questo l'ha fatto Raiola, su un ragazzo, un ragazzino che dovrebbe conoscere bene, di 18 anni, è pericoloso. Sì, perché nella vita io capisco anche i feudatari e gli araldi che sono schierati con questi, con quelli, prima con Galliani, adesso con Sassone, una volta con un allenatore, una volta con... Ognuno ha i suoi interessi, questo è il mondo, così gira, quindi pazienza. Ma i ventriloqui no. Quelli che parlano per bocca degli altri o che le cui bocche parlano per pensieri degli altri non li sopporto. Cioè, o Donnarumma ha una strategia di comunicazione con Raiola e quindi sono inutili i suoi piagnistei postumi, oppure si dissocia una volta per tutte da questo personaggio. Verissimo, no, condivido. Cioè, o dici, va bene, io sarò anche un ragazzino, però decidiamo tutti insieme che cosa fare, perché esatto. Su quel campo lì ci vado io, i fischi me li prendo io, la mia emotività è quella che è, insomma, basta essere chiari da questo. Adesso io guarda, la retorica dei guadagni, dei soldi, ne sono sempre distante, perché anch'io. I golfisti e i cestisti americani prendono infinitamente bravissimo. Di più. Per non parlare degli attori, dei cantanti, bla bla bla, possiamo fare mille esempi. Certo. Uno produce, incassi, pubblicità, porta soldi, fa ricchezza. La Carrà, quando passò dalla Rai a Mediaset, era uno scandalo, ma in realtà portò a Mediaset il doppio di quello che guadagnava, quindi non mi interessa. Però onestamente poi quando si scende sul sentiero della pressione, dello stress, degli affetti, del cuore, della maglia, in questo teatrino non si può stare lontani dalla gente che pensa appunto a un ragazzo di 18 anni che guadagna 15.000, un po' più di 15.000 euro al giorno e gioca nel Milan. Onestamente non sta in piedi. Da qualsiasi punto la si guardi, la si giri, la si viva, è una questione che non sta in piedi, certo. Non è difendibile. Certo. Rispondiamo insieme a Vincenzo da Ferrara, primo ascoltatore di oggi. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Vincenzo da Ferrara, grazie per la convocazione. Volevo dire la mia sul caso Chris Froome. Sì. Allora, niente, io sono un cicloamatore e il fatto che questo ragazzo qua prenda dei farmaci per l'asma, sinceramente mi fa un po' sorridere, perché... un signore che ha l'asma, che fa il ciclo, che fa il ciclista professionale, poi va a vincere quattro Tour de France, sinceramente a me fa un po' sorridere. Poi sinceramente a me secondo me il Tour de France ormai sta rovinando il ciclismo. Aspetta la vostra risposta. Il Tour de France, grazie. Mi scusi, non ho sentito cosa ha detto. Sta rovinando il ciclismo, prima il dopo caso Armstrong e poi dopo questo caso, no, qua, diciamo, siamo alla frutta, secondo me. Non è più l'interesse di vedere la gara sportiva. Beh, ma non, questa è una forzatura, dire che il Tour de France sta rovinando il ciclismo. Il Tour de France è semplicemente la corsa più importante del mondo ed è quella che i grandi campioni vogliono vincere. Perché dall'altra parte dell'oceano, perché Armstrong metteva la bandierina gialla sempre sul Tour, lasciando stare tutto il resto, perché è la corsa che tutto il mondo segue. È come vincere la Champions League, il Giro d'Italia, può essere l'Europa League, la Vuelta, quello che volete voi. Però il discorso è questo. Quanto all'asma, se io seguendo le corse ciclistiche ne ho visti tutti i colori, dalle ricette dei dentisti alle caramelle della zia Moser, mi riferisco al caso di Simoni, al diuretico, alle siringhe, alle flebo che volavano dalle finestre di quell'albergo di Sanremo quel giorno. Beh, quindi quello che mi fa specie è che continuano a raccontare delle bugie, perché tanto poi li sgamano, non è che c'è molto altro da dire. Black History Before Christmas, anche questa di From, insieme a quella di Donnarumma, è arrivato Pierluigi Pardo, che saluto. Come va? Eccolo. Come va? Sono benissimo. Con Ricci, Sei con Ricci? Sono con Ricci, però stavolta in Italia. Ricci in Italia è un evento tipo la cometa di Halley. No, ma ogni tanto Halley. Passa Ricci dall'Italia. Passa. Ascolta, abbiamo con noi Luca Serafini, che qui chiede un istante di pazienza. Andiamo con il traffico, poi stiamo chiacchierando del caso Donnarumma. Mi sembra che il caso sia abbastanza chiaro in tutta la sua tristezza, in tutte le sue puntate, in tutti i suoi sequel. Però vorrei chiedere a Luca poi, dopo il traffico, anche una battuta su Gattuso, sul Milan, che è un po' destabilizzato forse, già fragilissimo, forse destabilizzato da questa vicenda relativa al suo portiere. Subito dopo l'intervallo la lotta continua! Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti convocati, compreso Stefano e Giuseppe, che sentiremo tra un attimo insieme a Pierluigi Pardo. A Luca Serafini invece, prima di salutarlo, voglio mandare ancora un'opinione, che è quella su Gattuso e sul lavoro che sta facendo sul Milan, che è ancora, se vogliamo, impalpabile, però ha messo in fila due buone partite. Sì, si intravedono dei segnali innanzitutto dal punto di vista dell'atteggiamento in campo. E poi anche qualche spiraglio di gioco, di verticalizzazione, di inserimenti, di movimento senza palla. Poca roba, come hai detto tu, insomma, dei frammenti però si vedono. Credo che Gattuso abbia necessità assolutamente di curare i dettagli, e parlo in particolare intanto dei centrocampisti che devono proteggere la difesa e inserirsi con più senso. La difesa, i movimenti difensivi, che ogni volta che un avversario qualsiasi esso sia si avvicina all'area, il Milan sembra andare nel panico. E poi nei calci da fermo, perché il Milan batte troppi calci d'angolo che hanno esito innocuo. Sì. Grazie. Però, grazie Luca. Grazie a voi, uno saluto a tutti. Ti ringrazio. Hai sentito Luca Serafini, Pier, sei d'accordo con lui? Sì, ci sono dei segnali sicuramente di crescita, per ora è presto, secondo me è presto per pensare che il Milan abbia svoltato, però insomma sicuramente dopo il pareggio shock di Benevento la squadra si è ricompattata, ha dato le risposte e quindi sono dei segnali di crescita, ma il Milan è destinato a crescere un po', poi sì, probabilmente non in maniera... Beh, ma guarda, penso da un po', poi no, probabilmente Pier. Ormai la stagione è andata per certi obiettivi e forse l'Europa League diventa uno scenario quasi più interessante, però io credo che la condizione del Milan sia destinata a migliorare, cioè vedo un Milan sesto. Sì, anch'io lo vedo. Anche la vita, però insomma... Non vedo alternative. Non vedo alternative al sesto posto, tutto andando bene e mettendo nel conto anche la crescita preventivata. Nel frattempo, se hai lì Ricci, chiedigli un po' se Real Madrid cerca un portiere. Intanto io interrogo Stefano. Ricci sta dentro che mania col foto. Aspetta, adesso. No, ma così, ma senza proprio chiediglielo te, così. Real Madrid cerca un portiere, mi chiede gente. Prende Kepa. Sì, dovrebbero prendere Kepa dall'Atletico Bilbao. Ah. Ma non Donnarumma. Ah. Perché? Perché sono già quasi d'accordo con Kepa che si svincola a giugno e lo e hanno offerto 25 milioni a gennaio, il ragazzo non firma e quindi l'Athletic, di fronte all'ipotesi di perdere 25 milioni, probabilmente glielo dà e glielo darà già a gennaio. Hai capito? Vabbè Filippo, grazie di questo cameo. Io non me l'aspettavo, pensavo mi dicessi qualcosa di diverso, perché insomma, pensavo che il Real Madrid potesse essere la prodo più agevole per Donnarumma, ce n'è un altro che potrebbe essere Paris Saint-Germain, altri non ne vedo, però sono per il momento scenari di fantamercato. Dica Stefano. Niente, buongiorno, sono Stefano dalla provincia di Bergamo. Sì. Io volevo fare una piccola riflessione sulla vicenda di Donnarumma. Ma dimentichiamo forse il fatto che era successo alla Lazio di Lotito con Keita e Biglia. Cioè, magari adottare lo stesso sistema forse sarebbe anche un po' utile, perché insomma il signor Donnarumma ha firmato un contratto e diciamo che in qualche situazione ha quasi umiliato la tifoseria in Milan, potrebbe anche magari essere una soluzione, o mettendolo certo. fuori rosa, o magari farlo giocare con la primavera, visto che è un ragazzo del 99. E mi ricordo che signor Keita da 30 milioni è stato valutato alla fine 50, quindi non perderà sicuramente la valutazione, però magari impareranno un po' a stare al mondo questi giovincelli qua. Sì, ho capito. Questo così in gergo giuridico si chiama mobbing, volendo, però è una strategia che alla Lazio è molto popolare e quindi si prende atto di questo. Poi lo più interessante, Carlo, secondo me è il clima che c'è, direi, del paese, perché ripeto, questa non è soltanto una storia di calcio, è una storia che riguarda tutti. Ma è ovvio, attorno a Donnarumma, il fatto che abbia comunque rotto il silenzio è abbastanza indicativo. Cioè bisogna ripeto, avere una coerenza con quello che vuoi fare nella vita. Se nella vita vuoi andare allo strappo, alla rottura, perché sai che potrai guadagnare più soldi, io non lo escludo. Cioè, le voci che ci sono sul fatto che Real Madrid e Paris Saint-Germain potessero dare, magari anche in futuro potranno dare più soldi a Donnarumma, non mi sorprendono. Il valore del giocatore c'è tutto, è chiaro che non è una sola, è un grande giocatore, giovane, di grande prospettiva, quindi anche se guadagna tantissimo, cioè, la cosa demagogica superiamola. No, superiamo la cosa, ma anche, ma mettiamoci però dentro io, anche le prospettive proprio professionali, no? Ma no, io infatti questo è quello che penso. Io penso che un ragazzo così giovane e così bravo è meglio, ma queste sono cose che dicevo anche quest'estate, è meglio se cresce piano, ma piano non vuol dire che deve prendere lo stipendio di un ragazzino. Cioè, già lo stipendio che prende è clamoroso, è meglio se cresce gradualmente, perché se questi strappi possono creargli un danno dal punto di vista dell'immagine, certamente, e anche dal punto di vista psicologico, perché comunque sono uomini, anzi questo proprio sono ragazzi, quindi sono uomini ancora più fragili rispetto. Questa è come la vedo io da fuori. Se poi invece da parte di Donnarumma c'è stata, ma non credo, se ci fosse stata invece una determinazione completa, una strategia completa al 100% d'accordo col suo procuratore, certo, chiaro, allora a quel chiaro, punto chiaro. Va benissimo così. No, a mi sembra che ognuno vada per i fatti suoi, dalla famiglia che va da una parte, alla donna Raiola che va da un'altra, si crea il triangolo Fassone Mirabelli. E lui sta in mezzo e dice: no, scusatemi, io non è vero che ho scritto questo, violenza morale, forza Milan, sono cose veramente da uno che sente il peso di una situazione che probabilmente non è in grado di reggere. Però si mettessero d'accordo. Ecco, si mettessero d'accordo. La curva non va davanti di così al Milan, lascialo. Che è chiaramente l'ipotesi più estrema. Si può anche non lasciare un procuratore, si può anche però dire al procuratore suddetto, visto che è un procuratore bravo: guarda, se vuoi stare con me devi cambiare strategia, perché io non voglio questi strappi così e queste figure che mi fai fare in giro per l'Italia, non le voglio fare, per cui io sto qui, onoro il mio contratto, cresco, poi se ci saranno delle condizioni in pace e serenità di andarsene, perché tanto, voglio dire, il giocatore c'è come valore, quindi ci potrebbe stare anche un interesse del Milan in prospettiva, in futuro, se ne era anche parlato nei giorni scorsi, no? Chiaro, chiaro. A proposito di presunte difficoltà dovute al mancato arrivo alla Champions League, ci sta pure come ragionamento, perché Fassone è stato sempre molto onesto da questo punto di vista, ha detto che la Champions League era un passaggio molto importante, che chiaramente c'è un piano B e certo. Il Milan non finisce se non dovesse andare in Champions, ma è ovvio che la Champions comunque porta dei soldi, quindi il sacrificio di uno come Donnarumma ci potrebbe anche stare, ma un conto è se questo sacrificio avviene in un clima di sostanziale serenità. E poi è chiaro che non è mai bello quando un giocatore importante se ne va via, però un conto è se questa cosa la fa in maniera serena, se la fa in maniera traumatica. In maniera traumatica, mettendo in mezzo gli avvocati, le pressioni psicologiche, oltretutto, ragazzi, questa cosa qui delle pressioni. Allora lì veramente divento veramente demagogico, come divento populista, perché sono tutto della vita, ma che uno possa aver avuto le pressioni psicologiche e quindi parlare di una violenza psicologica subita per firmare un contratto del genere, io sono pronto a farmi violentare psicologicamente per la metà di quei soldi, no? Quindi è un punto di vista demagogico e odio il populismo, però è vero pure che semplicemente è stato fatto passare il sospetto che sia avvenuta questa recriminazione, questa rivendicazione, vabbè, ma chi ci crede? Completamente. Siamo sempre quelli come Crosetti, ormai non caschiamo più dal pero, quindi ne abbiamo sentiti di tutti i colori, è chiaro che quella è una forzatura. No, ma ce l'ha spiegata anche l'altro giorno chiaramente l'avvocato Pasquini, cioè ci sono delle fattispecie che configurano l'annullabilità del contratto. Questa è una di quelle, ma è evidente che non puoi parlare. Ma non puoi annullare un contratto, ma c'è altro. No, ma devi provarlo, Pier. Cioè, provatemi la violenza morale. Una roba del genere la può fare un giocatore a 35 anni, a 38 anni, a fine carriera. La può fare uno che non ha più niente, che non ha un domani. E se dici, sai che c'è? Io ci provo a monetizzare dei soldi o a monetizzare un'occasione, perché ho finito la mia carriera e me la gioco in maniera spregiudicata. Ma un ragazzo così giovane ha tutta la vita davanti. È vero quello che ha detto ieri quell'ascoltatore, che poi il calcio è molto veloce, per cui poi se gioca bene è nazionale, è grande partita, prende 8 in pagella, siamo tutti contenti. Ma perché un ragazzo di 18 anni che ha tutte le potenzialità per fare una bellissima carriera comunque non può stare un po' attento a questi passaggi che gli possono consentire di lavorare in un clima migliore? Poi è ovvio che se il Milan rimane quello che è oggi e Donnarumma diventa il giocatore che gli auguriamo di diventare, è ovvio che le strade alla lunga non coincideranno. Questo è evidente. Almeno di fare a Totti o a Viezzanetti. No, ma per carità, è chiaro che lì si va per le lunghe se si aspetta un Milan competitivo, nella migliore delle ipotesi si va per le lunghe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a voi e auguri. Grazie, de che? Ecco. Compleanno. Ma magari ci risentiamo prima, solo qui. Si sa. Comunque ricambiamo di cuore. Grazie. Buon Natale, buon anno. Grazie. Voglio dire che Pardo è il miglior commentatore che c'è alla radio e forse alla televisione, ma io non la guardo la televisione. Complimenti a Pardo. Grazie, non ho parole. Grazie, troppo buono. No, è la verità. Dopo le faccio dire da Pardo invece una cosa che gli ha detto Spalletti un giorno, se la vuole dire. Dica, Giuseppe. No, riguardo a Donnarumma, secondo me manca la famiglia e il Milan fa una figuraccia, primo punto. Il Milan? Insomma, non riesce a gestire la situazione, sta facendo prendere per il naso da uno che non parla manco l'italiano. Sarebbe... Raiola. Ne ha presi per il naso parecchi, sul fatto che non sia esattamente un accademico della Crusca credo che sarà d'accordo anche lui, però indubbiamente in quelle cose ci sa fare, in quelle cose è bravo. Ma poi la sai anche tu quella, che non so se sia vera ma è leggenda popolare, secondo cui si presentò da Moggi quando portò Ibrahimovic alla Juventus in bermuda e sandali, e Moggi disse: ma ti presenti qui a parlare alla Juventus vestito così? E lui gli rispose, sempre secondo la leggenda popolare: siamo qui per parlare di Ibrahimovic e di soldi o di come sono vestito io? Questo sarebbe... Senti, però è importante precisamente che tu possa vestirti in maniera degna. Senti, vogliamo rendere pubblico, fare outing su quello che ti disse un giorno Spalletti? Ma no, mi disse una cosa, appunto: se tu sei il numero uno quando c'è da fare lo spettacolo, l'intrattenimento, le qualità, la disponibilità ai calciatori. No, parlo l'anno scorso una volta... Nella vigilia di una partita di Champions, l'unica che giocò la Roma a Porto, l'andata, fu molto, molto carino, molto simpatico. Insomma, sto lavorando su questa evitazione ormai notte e giorno. Sì, ma migliora un giorno di più. Continua a dire Gio Mario così. Sì, tua moglie diventerà anche un po' gelosa, magari ti svegli nel cuore della notte, Gio Mario nel corto. Luca, buongiorno, poi ci fermiamo per la borsa. Buongiorno. Dica. Ascolta, io non sono uno che segue il calcio in maniera proprio passionale, però è inevitabile sulla faccenda Donnarumma fare dei piccoli ragionamenti, dei piccoli pensieri. Che vi dico la verità, io non sono uno che generalizza molto, gli piace fare polemica, però... riguardo a questa faccenda, vedendo gli stipendi che girano nel mondo del calcio e delle piccole riflessioni, penso che tutti inevitabilmente vadano a farle. E mi rendo conto che sentire certe polemiche o vivere certe situazioni sentendo dire ma povero Donnarumma o povera società, cioè è inevitabile che... No, ma guardi, allora nessuno dice povero questo o povero quello. Quanto agli stipendi, io la penso esattamente come Luca Serafini, cioè gli stipendi dei calciatori li determinano le leggi di mercato, nessuno regala i soldi a nessuno. così come non mi faccia fare sempre lo stesso parallelo. Bisogna solo evitare, beh, bisogna, insomma, è preferibile, se uno ci tiene ad avere un'immagine carina agli occhi del mondo, essere consapevole di questa cosa qui e quindi cercare di comportarsi in una maniera che ti preservi da critiche esagerate. Poi nessuno ha ragione, è il mercato che fa le regole. Possiamo discutere certo. Tutta la vita sul fatto che un chirurgo che studia come curare le malattie o un ricercatore che studia chissà che cosa è importante guadagni un centesimo di una rockstar, di un calciatore o di un attore. Però le leggi di mercato sono quelle. Lo chiediamo a Barisoni, però sono le leggi di mercato. È importante che se hai 18 anni e prendi quello stipendio lì, non vai a pestare delle situazioni che ti possono ledere alla tua immagine. Sì, tutto alla... qua. Se è qui, sì, se alla tua immagine, anche la tua. Se frega qualcosa della tua immagine. Se non no, se ne frega qualcosa. Più che altro, no, non è questione di immagine, più che altro è avere poi la capacità di andare in campo contro uno stadio che ti ulula addosso, perché questo è ciò che è successo, lacrime comprese, borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. Secondo me senza il mister non siamo con questa squadra dove stiamo adesso e lui ha molto responsabilità e fa le scelte sue e secondo me fino adesso ha cambiato Napoli, ha preso Napoli, dal momento che ha preso Napoli ha fatto fare una squadra fortissima con giocatori che erano normali, ha fatto diventare forti e secondo me è grazie al mister. Non solo noi, abbiamo un momento difficile, anche le altre squadre e tocca a noi di continuare a fare che stiamo facendo e secondo me con questo gruppo stiamo facendo molto bene. Non è stanche, sono tante partite e non le puoi vincere tutte, non ho mai visto una squadra che non ha avuto un momento difficile in un campionato e siamo sempre lì e vogliamo stare lì e dopo alla fine si vede. Questo era Dries Martens in questa copertina, grazie Gianmarco Ferronato e Giorgio De Luca per l'impeccabile montaggio come sempre. Dries Martens dunque che ci permette di cominciare a guardare dal buco della serratura una giornata di campionato nella quale tutto il senso sta praticamente domani tra le 15 Inter-Udinese, le 18 quando il Napoli sarà di Martens ovviamente, dopo due sconfitte e un pareggio coppe comprese sarà di scena a Torino sul campo del Toro e poi alla sera Roma-Cagliari. Nella domenica del villaggio vedremo invece Verona-Milan a mezzogiorno e mezzo, l'ora di pranzo, lunchtime, e poi il clou è Bologna-Juventus nel pomeriggio della domenica. Io volevo fare un inciso sull'argomento di prima, ho detto, c'è un messaggio che è di un ascoltatore WhatsApp che mi scrive: gli stipendi degli operai e della gente comune non li determinano le leggi di mercato, domanda, ma basta queste stronzate. Allora, se uno, per fare un parallelo chiaro, se uno vuole Pierluigi Pardo come telecronista, Pierluigi Pardo come sapete lavora a Mediaset, ecco, se lo vuole come telecronista, come commentatore, se un'altra rete lo vuole, deve offrirgli qualcosa di meglio. Se invece si accontenta di uno qualunque, allora il mercato diventa più largo. Insomma, si tratta di un concetto giuridico che è quello dei lavoratori fungibili o di quelli infungibili. Scusami se ti ho adoperato, pardon. No, usami, no, ma è vero, poi cioè, questo qui non. Ripeto, questo discorso qui è verissimo, poi non toglie che ci siano delle. Poi, vabbè, ma io sono, diciamo, abbastanza dalla, insomma, vorrei che ci fossero meno differenze, diciamo, fra ricchi e poveri, proprio per cultura. Cioè, quindi, insomma, tendenzialmente tendo ad essere d'accordo con quello di chi era ascoltatore, cioè. È ovvio ovvio che esistono delle disparità che sono assurde, però quelle disparità assurde le può risolvere soltanto lo Stato, cioè soltanto lo Stato, un'istituzione è evidente, che può decidere di fare un meccanismo di perequazione che avvicini ai limiti del possibile le persone per fare in modo che... Proprio, a me piacerebbe molto essere Brad Pitt, non ci riesco, ci ho provato. No, no, è questo, chi assomiglia un po' di più a Brad Pitt rispetto a me è Nando Orsi. Sì, uguale, vero? Uguale. Eh? Vabbè, sicuramente occhio chiaro, occhio chiaro, cappello biondo, eccetera, ragazzi, eccetera. Adesso scusate, Nando, per Fernando, aspetta un secondo, perché Ricci è appena arrivato l'abbacchio a Ricci. Io vorrei a questo punto, per la par condicio, che Ricci ci parlasse della notizia del giorno, cioè che noi andremo al mondiale al posto della Spagna, perché ormai in Spagna non si parla d'altro, non si parla d'altro. E lui è ottimista, no, però insomma un po' di ciccia c'è, e non solo quella dell'abbacchio adesso. Dica, dica. C'è l'abbacchio e poi c'è questa minaccia della FIFA. Ma chi ci crede, dai? Non so, però voi dite, se per tirare fuori una cosa del genere qualche elemento ce l'avranno. Sì, come no. Allora io dico, io mi sa che mi occupo tanto di Africa, no? Quando ci sono problemi in Africa la FIFA interviene, siccome lì le federazioni fanno quello che gli pare, così intervengono e mettono sempre mano. È chiaro che con la Spagna non lo possono fare, però lo scandalo è grosso. Villar è finito in carcere, poi è uscito pagando la cauzione, gliel'ha pagata l'ex CT Javier Clemente, è uscito dal carcere, adesso è a casa, ai domiciliari, e insomma la situazione non è proprio così all'acqua di rose. Sì. Io posso fare una domanda? Sì, Nando. No, io dico, io non ho mai visto, da quando sono vivo, l'Italia non qualificarsi ai mondiali. Quest'anno che non si è qualificata, esce per la prima volta una notizia per la quale se una nazione fa qualcosa, non è mai successo in un mondiale, che una squadra... Però è successo soltanto... prima è successo con Perù. E Perù era patetico, sì, va bene, ma, perché, ma perché in Italia, guarda che secondo me sono notizie che sono soltanto in Italia per cercare di dare un po' di speranza, no, così, no, ma... no, la notizia in Italia è non ancora uscita, cioè è uscita in Spagna prima, quindi sì, per dire, ti dico, magari non succede niente, però noi diciamo, come in questo momento abbiamo, diciamo, possiamo parlarne, poi dopo non si chiude in niente e va bene, però se tu guardi i siti dei giornali spagnoli, cioè, e poi non solo gli sportivi, cioè il mondo è tipo la quarta notizia in questo momento, giornale politico, se la danno con questa enfasi vuol dire che la preoccupazione c'è, se no la mettevano al ventesimo posto. Questo è chiaro, però l'esclusione del mondiale secondo me è lunga. Il matrimonio sono battuto avanti, però no, ragazzi, io vi lascio, ma io congedo te e Pardo all'abbacchio, vi lascio all'abbacchio volentieri. Non sono io l'abbacchio, no, lui l'abbacchio, no, mi raccomando, non mangiatemi Pardo, per favore, che mi serve. Ce lo lasciamo, e l'unica cosa è questa, ci sono degli elementi, a me, io lo vedo come una cartina di tornasole, mi hanno chiamato tre persone, se non c'è la notizia non mi chiamano. No, poi questo è chiaro. Poi ti dico, vediamo, la Spagna è troppo importante, comunque sta di campione del mondo 2010, però è anche vero che questo caos nella situazione c'è da tanto e sono finiti in prigione. No, ma guarda Filippo, questo è sicuro, questo è evidente, è chiaro che una notizia non esce con tale virulenza se non c'è una effettiva preoccupazione, però secondo me il passo da lì all'esclusione della Spagna dai mondiali a me sembra davvero fantascientifico, molto più lungo del primo passo sulla Luna. Allora saluto Pierluigi Pardo e Filippo Maria Ricci, vi lascio alla bacchia, vi tengo ancora un attimo Nando Orsi dopo il traffico, così facciamo due battute su questo sabato del villaggio estremamente interessante. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto, c'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, come detto, io vorrei chiedere a Nando Orsi il favore di mettere una cornice intorno al disegno di questo sabato. Inter-Udinese alle 15 con insomma l'Inter che è alla riprova delle tre partite consecutive in una settimana, comprese la faticaccia con il Pordenone, cosa cui non è abituata. Torino-Napoli ore 18, Napoli arriva da due sconfitte e un pareggio, dicevo prima, coppe comprese, ma ritrova Insigne. E poi Roma-Cagliari. Roma-Cagliari. Che dici, Nando? Mi sembra allora, premesso che mi sembra che le cinque squadre lì davanti facciano un po' un campionato a sé, nel senso un mini torneo, no? Per cercare di arrivare una per vincere lo scudetto, le altre quattro per andare in Champions, e quindi una rimarrà col cerino in mano. Detto questo, spesso io ho detto che tra le prime e le squadre di prima fascia e quelle di seconda fascia c'è un grande, non c'è tanto equilibrio, quindi delle volte queste sono tappe di trasferimento. Nelle ultime partite ho visto che invece queste tappe di trasferimento si sono diventate inciampi, perché la Lazio ha perso col Torino, la Napoli ha pareggiato con la Fiorentina e la Roma ha pareggiato col Chievo, e quindi in questo momento al di là Inter-Udinese, Bonotto che sta anche facendo bene perché ha vinto due partite, il Cagliari con la Roma mi sembra una partita più difficile, Torino-Napoli mi sembra una partita dove ci può scappare qualcosa, soprattutto in virtù del fatto che il Toro contro la Lazio ha vinto una partita per 11 contro 10 come tutti quanti abbiamo visto, però il Toro gioca meglio fuori casa perché ha i tre lì davanti molto bravi, e con il Napoli che è abituato ad imporre il proprio gioco potrà lasciare spazio lì davanti, stanno secondo me abbastanza bene, quindi il pareggio potrebbe anche scapparci o la sorpresa. Inter-Udinese alla fine la tira fuori l'Inter la partita, seppur con fatica. Roma-Cagliari mi sembra una partita veramente da trasferire. È una partita che se volevamo sottilizzare poteva essere adatta per il turnover più di quanto non è stata Chievo-Roma la settimana fa. Sì, sono adatte per il turnover, in virtù anche del fatto che Nainggolan è diffidato e quindi potrebbe saltare la partita dopo, che il 23 c'è Roma-Juventus. Certo. Quindi il turnover che tanto gli allenatori sbandierano, no, però il turnover viene fatto sempre, soprattutto quando c'è la partita apparentemente semplice. Chiaro, quando c'è la partita importante, i titolari. No, vabbè, questo è evidente. Ciao Nando, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, un abbraccio forte. Allora, adesso in America lo sport sta cominciando a scaldare i motori, perché stagione del football che arriva verso la fine, NBA che entra nel vivo con i nostri italiani. E poi c'è anche un fronte politico interessante, quindi mi sembra sia il caso di cominciare a dare un'occhiata agli Stati Uniti. Questo è un grande classico della musica dell'erotismo, dalla chitarra di Jimi Hendrix a Woodstock, questa meravigliosa storpiatura di Stars and Stripes. Ciao Simone Sandri. Buon pomeriggio Carlo. Da New York. Ti piace la sigletta che ti ho dedicato? Grandissimo. E tra parentesi, Santana è sempre a suonare l'inno nazionale per i Golden State Warriors quando vanno in finale, è una dei must delle finali NBA, della stagione, la chitarra di Santana. Simone, io comincerei dal football, dove in questa stagione anche sul fronte politico sono uscite insomma varie notizie, sono uscite varie cose, varie rivendicazioni, e per la gioia di Cruciani si stanno avvicinando i playoff. C'è stata a New York la storia di Eli Manning, famoso quarterback, idolo delle folle, che è stato messo in panchina. E allora la società ha detto: ah no, Eli Manning in panchina, no, via l'allenatore general manager, magari lo vedremo un giorno anche in Italia. Poi cos'altro c'è? Beh, la cosa principale hai detto bene, c'è questa politica, quest'area politica che sta contagiando l'NFL, la quale sta vivendo un periodo difficile per i problemi dei tanti infortuni di giocatori di stelle, soprattutto di quarterback, non ultimo quello dello scorso weekend di Carson Wentz, che il quarterback di Philadelphia, che è la squadra più calda del momento, la squadra che sta sorprendendo, ha vinto 10 delle ultime 11 praticamente adesso cambiano completamente le prospettive di questa squadra. Ma la cosa abbastanza interessante di questa stagione sono proprio le proteste politiche, che i problemi che continuano, anche se nelle ultime settimane ci sono stati degli incontri tra proprietari e giocatori. Il problema di fondo sono che l'audience è abbassata e i proprietari sono un po' preoccupati. Ci sono delle lotte tra il commission Godel e tanti proprietari, primo fra tutti Jerry Jones, il proprietario dei Dallas Cowboys, per cui è una stagione un po' travagliata per l'NFL fuori dal campo. In campo si vede comunque un buon football. Il problema è stato questi infortuni a valanga che hanno contagiato grandi quarterback e soprattutto stanno un po' cambiando le prospettive anche della classifica. Certo, invece traghettando all'NBA, l'NBA, la stagione dei nostri italiani, mi sembra che Danilo Gallinari abbia ancora qualche problema ai Clippers. Sì, non è una stagione fortunata per Danilo. Si parlava di questi Clipper, il cui tallone d'Achille era proprio essere injury prone, cioè una squadra prone agli infortuni, con tanti giocatori prone agli infortuni. Purtroppo ci hanno, è stato proprio così, perché si è infortunato Griffin, Gallo si è infortunato, ha giocato solo 11 partite quest'anno, era rientrato, poi ha avuto un riacutizzarsi del suo problema al bacino, è fuori da 3 partite, per cui non è sicuramente un fortunato inizio di stagione per Gallo. Veli dal canto suo invece sta giocando un'ottima pallacanestro per una squadra con grossissimi problemi, che si sapeva sarebbe stata nei bassi fondi delle classifiche, però ci sono possibilità di vedere Beli alla deadline in un'operazione di scambio, in uno scambio, perché è un giocatore con un buon contratto in scadenza e che può essere utile a squadre che possono puntare ai playoff. Per esempio Denver potrebbe essere una delle squadre che potrebbe mettere gli occhi su Beli a febbraio, per cui stiamo attenti a Belinelli verso gennaio-febbraio, che secondo me ci sono buone probabilità che cambi squadra. Che cambi squadra, magari andando a giocare per qualcosa di più importante, che non sia il nulla, come sta facendo adesso. Esatto, esatto, esatto. Perfetto, Simone, ti ringrazio, ci sentiamo presto. Così grazie a voi. Vediamo di istituzionalizzare, se possibile, questo sguardo sull'America, con tutto quello che c'è dentro, tutto quello che comporta, sempre molto interessante. Beh ragazzi, vediamo quel venerdì del villaggio, visto che oggi mi è venuta questa espressione. E domenica ci sentiamo con Giovanni Capuano, con tutti i convocati weekend, alle 17 alle 19. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Ciao, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!